Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla lezione con il Torah Roma. Oggi studieremo la Mishnah. Come vedete nel testo, c'è anche il link per cliccare e seguire nel testo per chi volesse farlo. E in questa Mishnah, in realtà, noi abbiamo già fatto due lezioni su questo capitolo. Queste lezioni sono disponibili in versione audio. E più tardi posso mettere il link alle due lezioni precedenti. Anche chi non ha seguito le due lezioni precedenti può seguire questa lezione perché è una nuova Mishnah e anticipo subito di cosa si tratta. Qui stiamo parlando di che cosa? Stiamo parlando della santificazione del nuovo mese, cioè il momento in cui il Sanedrin accetta la testimonianza da parte di almeno due testimoni validi e vedremo più avanti come si conferma la validità dei testimoni. E confermando questa validità si accetta la testimonianza e si rende santificato ufficialmente il mese annunciando il Rosh Chodesh, il nuovo Rosh Chodesh, il nuovo capo mese. Ora riguardo all'arrivo di questi testimoni presso il Beit Din per appunto dare testimonianza della visione della luna, potrebbe accadere che la luna si vede di Shabbat. Allora la domanda è se ai testimoni è permesso profanare lo Shabbat per andare al Beit Din a testimoniare, se fossero in un altro luogo, non nel luogo in cui si trova il Beit Din, e quindi dovrebbero fare strada più di quanto sarebbe permesso normalmente fare di Shabbat. Noi sappiamo che di Shabbat c'è un limite di 2000 amot, e cioè circa 1 chilometro più o meno, non in genere, nella città si può fare tutta la strada che si vuole, ma uscendo fuori da quello che si chiama Techum Shabbat, il limite dello Shabbat, è vietato andare oltre un certo limite. E allora, appunto, ci si pone questa domanda sottintesa nella Mishnah: se è permesso agli Edim, e cioè ai testimoni, di profanare lo Shabbat per andare a comunicare al Beit Din che loro hanno visto la nascita, per così dire, della nuova luna, e forse il Chodesh, il mese, sarà santificato in base alla loro testimonianza. Allora, vediamo il testo della Mishnah. Al Shnei Chodashim Mechalelin et Shabbat. La Mishnah dice che per 2 mesi si può profanare lo Shabbat e non per tutti gli altri 10 mesi. Quali sono? Al Nissan ve al Tishri. Per il nuovo mese di Nissan, e cioè il mese in cui viene Pesach, e per il nuovo mese di Tishri, cioè il mese di Rosh Hashanah e Kippur, è permesso profanare lo Shabbat per andare a comunicare al Beit Din. E questi sono i mesi, dice la Mishnah, come se fosse tra parentesi, Shebahen, Hashluchim, Yotzin, Lesuria, i mesi nei quali i Shluchim, cioè gli inviati del Beit Din, vanno in Siria. Suria è il nome di luoghi che sono al di fuori di Eretz Israel, ma dove ci sono comunità ebraiche, quindi vanno a comunicare alla comunità della diaspora praticamente il giorno in cui è stato fissato lo Shodesh. Ubahen, Metakenin e Tamoadot. E questi sono effettivamente i mesi sui quali si basano le date di tutti i Moadim. Perché tutti i Moadim? Abbiamo parlato di 2 mesi. Perché chiaramente il mese di Nisan, quando si sa quale giorno è il primo giorno di Nisan, allora si sa quando è Pesach. Automaticamente, quando si sa quando è Pesach, si sa anche quando sarà Shavuot, perché Shavuot è il 50° giorno dopo il secondo giorno di Pesach, conteggio dell'Omer, quello che stiamo facendo adesso. Gli altri Moadim sono tutti di Tishri, Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot. Lo sappiamo nel momento in cui sappiamo quando è Rosh Chodesh di Tishri. E quindi In questi 2 mesi è permesso profanare lo Shabbat per andare a comunicare la visione della luna e per poi andare a comunicare alla diaspora. Invece per gli altri mesi si può anche aspettare. Ora la Mishnah però aggiunge: tutto questo, tutto ciò quanto abbiamo detto fino a questo momento riguarda solo l'epoca successiva alla distruzione del Beit HaMikdash. Quando non c'è più, quando non c'era il Beit HaMikdash, allora ci si comportava in questa maniera. Quando invece c'è ancora il Beit HaMikdash, vediamo il testo. Che Shehaya Beit HaMikdash Kayam, quando esisteva ancora il Beit HaMikdash, allora Mechalelin si profana lo Shabbat Af al Kulan, anche per tutti gli altri mesi. Per tutti i 12 mesi, se dovessero vedere di Shabbat, vengono di Shabbat, Mipnei Takanat Ha Korban. Perché? Perché per far sì che si possa fare il Korban, quale sacrificio? Quello di Rosh Chodesh. Perché a Rosh Chodesh c'è il Musaf, c'è il Korban aggiuntivo, come in ogni giorno festivo, quando noi recitiamo la Tefilah del Musaf. È in ricordo del Korban Musaf, cioè il Korban aggiuntivo, abbiamo quindi la tefilah aggiuntiva. Questo si deve fare di Rosh Chodesh e di conseguenza, se arrivano in tempo i testimoni per poter costituire e poi fissare e santificare il nuovo mese, allora nel Beit HaMikdash si potrà fare il Korban di Rosh Chodesh. Ok? Molto bene. Vediamo la prossima Mishnah. Per quanto riguarda sempre questo discorso di profanare o meno lo Shabbat, la Mishnah dice e vuole sottolineare che il profanare lo Shabbat è permesso nei casi in cui di cui abbiamo parlato, anche se la luna è molto visibile. E uno direbbe, sicuramente la vedono la luna anche nel luogo del Beit Din, perché la luna è alta, il cielo non è nuvoloso, si vede bene. Allora forse in questo caso non vogliamo profanare lo Shabbat. La Mishnah dice no. Vediamo il testo. Mishnah, hey, quinta Mishnah. Ben shenirab alil. Il fatto di profanare lo Shabbat è valido sia nel caso in cui la luna è vista in maniera chiara, nir'aba alil, in modo di vedere una cosa che non si può negare, una cosa chiarissima, ben shelo nir'aba alil, sia che non è visto chiaramente, quindi quando la luna è più bassa o è nuvoloso o è difficile vederla per qualche motivo, comunque mechallelin alav et ha'shabbat. In ogni caso, che vi sia più chiara o meno chiara la visione della luna, si profana lo Shabbat. C'è però una opinione che dissente, che è quella di Rabbi Yossè. Se vediamo nel testo che Rabbi Yossè Omer, Rabbi Yossè invece dice, Imnir Abba Alil, se la luna è vista in maniera così chiara, allora non è necessario profanare lo Shabbat perché ci appoggiamo al fatto che sicuramente la luna è stata vista anche nel luogo del Beit Din. Questa però è un'opinione minoritaria e la halakha segue la maggioranza, di conseguenza l'halakha rimane così come abbiamo detto all'inizio della Mishnah. La prossima Mishnah, la sesta Mishnah del primo capitolo, sottolinea ancora di più quanto i Chachamim volevano agevolare l'arrivo degli eventuali testimoni per testimoniare la visione della nuova luna, anche addirittura qualora non fosse più necessario. Vediamo di cosa si tratta. La Mishnah dice: Maase, è accaduto. Maase è una storia, un fatto. È accaduto un fatto. Qual è questo fatto? Sheavru yoter me'arba'im zug. Sono passati, andando verso Yerushalayim, sono passati più di 40 coppie, coppie nel senso coppie di testimoni, perché i testimoni devono essere almeno due che insieme hanno visto. Allora, più di 40 coppie, quindi più di 80 persone, sono passati nel loro viaggio, diciamo, il loro cammino verso il Beit Din, sono passati per la città di Lod. E a Lod c'era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ve Ikevan Rabbi Akiva, Belud, Rabbi Akiva li fermò quando passarono per Lud. Perché li fermò? Perché Rabbi Akiva sapeva che ormai non c'era più bisogno della loro testimonianza. C'erano già testimoni a sufficienza, evidentemente forse era un momento in cui la luna era vista Baalil, cioè molto visibile, e allora Rabbi Akiva ha detto: non dovete andare avanti a profanare lo Shabbat facendo tutto questo cammino fuori dalla città, perché non è più necessario. Rabbi Akiva li fermò. Il capo del Sanedrin, Rabban Gamliel, ebbe una reazione inaspettata. Vediamo cosa accade. Shalach lo Rabban Gamliel, gli mandò a dire Rabban Gamliel: Im me'akevata et arabim, se tu fermi il pubblico, cioè il pubblico si comporta in una maniera automatica in base a certe abitudini, a certi criteri a cui sono abituati, e loro sono abituati quando si vede la luna si va a comunicare, si va a fare la testimonianza. Se tu li fermi, perché tu hai fermato più di 80 persone, quindi è una cosa che poi sarà ben nota a tutti, allora tu fermandoli cosa fai? Nimzeta machshilan le'atid lavo. Risulterà che tu li fai inciampare, cioè incorrere in errore nel futuro. Cioè, può darsi che qualcuno vedrà la luna e dirà: ma tanto non hanno bisogno della mia testimonianza. Allora Rabban Gamliel ha detto: non puoi fare questa cosa, non puoi fermarli. E addirittura forse parliamo anche di un caso in cui questo avviene di Shabbat. Nonostante ciò, non fermare i testimoni che vanno quando vanno con il permesso del Bedin, perché non vuoi creare una situazione in cui la gente, il pubblico, deciderà di restare a casa in base al comportamento di come a certi Chachamim si sono espressi nei loro confronti. State fermi, non c'è bisogno, non è un problema, abbiamo già risolto. No, questa è una cosa per la quale noi in futuro avremo bisogno forse, e la gente si asterrà a causa del tuo comportamento. Quindi lasciali andare. E l'alaha effettivamente rimane così come è l'opinione di Rabban Gamliel, e non segue appunto quello che aveva fatto Rabbi Akiva. Sì. Vedere la luna, che significa vederla in cielo oppure vederla sotto una certa angolazione? Allora, ottima domanda che fa Leone. Quando si dice la visione della luna, cosa si intende? Effettivamente è una cosa che si affronterà nelle prossime Mishnayot, però nel senso più semplice si intende proprio nel senso più letterale, vedere la luna stessa, non il rispecchiarsi della luna in qualcosa, non una visione offuscata, non chiara, eccetera. Dovrebbe essere una visione abbastanza chiara della luna stessa nel cielo. Prego. Se capitava che il momento che lo scoglio che dovevano vedere la luna, però c'era brutto tempo, come facevano? Ok, allora cosa avviene nel momento in cui è nuvoloso e non si vede la luna? Allora effettivamente, forse ne abbiamo parlato già nella prima lezione, il Beit Din sa quando più o meno dovrebbe essere Rosh Chodesh, perché Rosh Chodesh può essere 28. oggi o domani, o 29 o 30. Il mese lunare dura 29 giorni e mezzo e qualche momento in più, 29 ore, 12 gio 29 giorni, 12 ore e rotti. Ora, quindi Rosh Chodesh oggi o domani, non è che può essere tra una settimana. Allora il Beit Din è pronto ad accettare testimonianze dal momento che è possibile che sia Rosh Chodesh. Il Beit Din si siede e rimane lì a disposizione. Se non arrivano testimonianze fino alla fine della giornata, automaticamente si farà Rosh Chodesh domani. Si Ah, fisserà Rosh Chodesh il giorno successivo, quindi sarà un mese di 30 invece di 29. In base a questo, all'epoca della visione della luna, quindi del santificare ogni mese, di mese in mese, come si decideva se sarà un mese di 29 o di 30? In base al fatto se arrivano i testimoni o non arrivano. Questo era in origine così. Oggi abbiamo, come abbiamo spiegato nella prima lezione, abbiamo 6 mesi di 29 e 6 mesi di 30 giorni. Come è stato fissato il calendario perpetuo. Va bene? Ok. Allora, facciamo un'altra Mishnah. Mishnah Zain, che è la Mishnah 7 del primo capitolo. La Mishnah parla di alcune casistiche specifiche che possono accadere. E la Mishnah dice così. Av ubeno, un padre e figlio, Sherau et HaChodesh, che hanno visto il rinnovo, quindi hanno visto la luna, e vorrebbero testimoniare. Però noi sappiamo benissimo che due testimoni che sono parenti non sono validi ebraicamente parlando come testimonianza. Per questo, se voi vi ricordate, se avete assistito a qualche chuppah, dove servono i testimoni, due testimoni validi, ebrei osservanti che vedono i Kiddushin, la Chuppah, il Rav deve assicurare che non siano parenti né tra di loro né tra uno dei testimoni e lo sposo o la sposa. Testimoni devono essere non parenti. Se succede che padre e figlio vedono la luna, e stiamo parlando di testimonianza, allora la Mishnah dice, Yelchu, che vadano verso il Beit Din. Come possono andare verso il Beit Din se sono parenti? Non è una testimonianza valida. Allora la Mishnah chiarisce subito. Lo shemitzdarfin ze im ze, non per dire che l'uno si accoppia all'altro come testimone padre e figlio. Non sarebbe effettivamente una testimonianza valida. Bensì, è là. Se uno di loro non sarà considerato valido, i passel sarà reso pasul, invalido come testimone, il padre o il figlio, allora forse sarà possibile che l'altro, uno dei due, il padre o il figlio, potrà unirsi in testimonianza a un terzo testimone che magari è venuto, ha detto anch'io ho visto la luna. Cioè può darsi che ci sia un altro testimone che potrà unirsi al padre o al figlio in una testimonianza valida. Quindi, di nuovo, anche qui lo stesso tema in realtà ricorre, quello di non astenersi dall'andare al Beit Din. Anche qualora potrebbe essere che il Beit Din non potrà accettare la tua testimonianza, tu vai, vedi come si sviluppa la situazione. Forse ti unirai a un altro di cui non sai e che da un'altra parte ha visto la luna e la vostra testimonianza si incrocia. E diventa un'unica testimonianza. Questo è questa è l'opinione del Tana Kama, e cioè il primo maestro citato nella Mishnah. Ora vediamo un'opinione molto interessante di Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, che sarebbe normalmente Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Omer dice: Av ubno, padre e figlio. E tutti gli eventuali parenti sono sì kasher, sono sì validi come testimoni per Eidut HaChodesh, per la testimonianza della nuova luna. Rabban Shimon dice: se noi vediamo quanto è scritto nella Torah riguardo a questa testimonianza, che è la prima mitzvah che è stata data agli ebrei quando ancora erano in Egitto, ancora prima dell'uscita dall'Egitto, e HaKadosh Baruch Hu si è espresso a Mosè dicendo: HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, questo rinnovo della luna sarà per voi considerato il capo dei mesi, primo mese, il mese di Nissan. Usando il termine Lachem per voi, a chi sta parlando quando dice per voi? il senso semplice al popolo di Israele. Però se vediamo nei versetti a chi è rivolto letteralmente, il Signore parla con Mosè e Aaron. E dice: questo è per voi, Mosè e Aaron sono fratelli. Allora Rabbi Shimon dice: qui si allude all'idea che anche due fratelli, quindi parenti che in teoria sarebbero invalidi per la testimonianza in generale, per la luna sono validi. Ok, giusto. Ma i maestri dicono: non è questo il significato. I maestri dicono: Lachem, per voi non significa te, Mosè e Aaron, voi due. Significa i grandi della generazione, il Beit Din. In altre parole, quello che abbiamo sempre saputo, non è il singolo ebreo a decidere quando diventa Rosh Chodesh. Io vedo la luna, allora festeggio Rosh Chodesh. Tu vedi la luna domani, festeggi Rosh Chodesh domani. No, Lachem, voi che gestite tutto Am Israel, quindi il Sanedrin, il Beit Din Agadol, il grande Beit Din, la grande corte, è quella, quella che può costituire il Rosh Chodesh, santificare il mese. E questa effettivamente è l'opinione di maggioranza. E l'Alaha quindi non segue questa opinione molto interessante di Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yose, disse Rabbi Yose, cita un dato, un fatto accaduto nel contesto della testimonianza di parenti. Vediamo qual è la storia. Ma se è accaduto un fatto, Betovia Harofe, con un certo medico che si chiamava Tovia. Tovia il medico, Shera et Achodesh Birushalayim, vide il rinnovo del mese, quindi vide la luna a Gerusalemme. Chi vide? Lui, il medico, Hu, Ubno e il suo figlio, Veavdo Meshuchrar, e un suo schiavo liberato. Un schiavo liberato significa una persona che è diventata praticamente ebrea. È come dire un ghiur. Ora non entriamo in tutto questo discorso, forse più avanti. Vekiblu Akoanim. I Koanim che stavano vedendo chi sono i testimoni validi accettarono la testimonianza di Otto Vet Beno, sua testimonianza e la testimonianza di suo figlio Upaslu et Avdo, e non hanno accettato la testimonianza dello schiavo. Quindi c'era tipo un retaggio di Koanim. I Koanim non sono il Beit Din, ok? Però stavano aiutando, magari c'erano tanti, non so esattamente la dinamica, perché i Koanim, però i Koanim hanno fatto una prima, diciamo, come dire, una prima cernita dei testimoni, hanno detto: no, guarda, accettiamo padre e figlio, ma non accettiamo questo ex schiavo. Quando sono arrivati e giunti davanti al Beit Din stesso, che fanno la decisione finale e reale, Ukshebauli Fnei Beit Din, Kiblu Oto Vetavdo, hanno accettato la testimonianza di Tovia il medico insieme al ex schiavo, perché non sono parenti, Upaslu et Beno, e hanno reso invalida la testimonianza se fosse insieme al figlio. Ha detto: il figlio no, il medico e lo schiavo, questo sì. Quindi questa storia conferma di quanto abbiamo detto prima a nome della maggioranza, che non si accetta testimonianza di padre e figlio o di altre parentele, e invece ecco appunto, rimane una testimonianza falsa e non si accetta l'opinione di Rabbi Shimon. Nella prossima lezione vedremo, nella successiva Mishnah, quali sono delle categorie di persone che sono rese invalide in generale per testimoniare davanti a un Beit Din. Cioè, quando si dice un testimone, deve essere un testimone valido. Come si definisce la validità del testimone? Alcuni criteri li vedremo appunto nella prossima lezione. E auguro una buona giornata a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Buona giornata.